Radio 24 Reportage. Parigi senza macchine. Potrebbe esserlo anche in altre capitali europee? Di Cristina Rosati. La gola pizzica, gli occhi bruciano e lacrimano, la testa gira. Sono le 17 in piazza Stalingrad, nel 19° arrondissement, a Parigi. abitanti, 12 milioni se includiamo l'estesa banlieue, 21.000 abitanti per chilometro quadrato. L'inquinamento, terza causa di morte in Francia, in città è provocato al 50% dai gas di scarico delle automobili, anche se il 60% dei parigini non ha la macchina e usa i trasporti pubblici. 14 linee della metropolitana coprono tutto il centro, 5 anche la periferia, più tram e autobus. Sono passati ormai 2 anni dagli accordi sul clima di Parigi e l'ultima COP si è chiusa senza lasciare il segno. Eppure, per quanto riguarda la città di Parigi, sembra che qualcosa si sia mosso. O, almeno, è questo quello che dice la società di ingegneria internazionale Arcadis, che ha analizzato la mobilità sostenibile di 100 città nel mondo dal punto di vista umano, ambientale ed economico. Parigi si è piazzata al terzo posto, dopo Hong Kong e Zurigo. Sentiamo l'architetto di Arcadis, Stéphane Kirkenlund. Com'è possibile che Parigi abbia avuto un risultato così positivo? Per esempio, questo è un sistema abbastanza vecchio. Il metro è stato costruito dal 1900, più o meno, e c'è una copertura molto densa del centro urbano. Il metro è molto usato, il percentuale d'uso del metro entra nei criteri. E il fatto che i trasporti pubblici sono così privilegiati contribuisce anche al risultato dal punto di vista ambientale e finalmente c'è un modello economico abbastanza sostenibile di questa rete di trasporti pubblici e ultimamente nuove misure tipo il Vélib, il sistema di biciclette che si può usare così con un abbonamento e altre innovazioni per promuovere forme alternative per spostarsi. Il comune vorrebbe infatti fare di Parigi il laboratorio mondiale dei veicoli puliti. Per quanto riguarda il nuovo sistema di biciclette pubbliche, in questi giorni stanno scomparendo i vecchi Vélib dal telaio grigio che lasceranno il posto da gennaio al Vélib 2, 30% di biciclette turchesi elettriche e il restante 70% di colore verde e a funzionamento meccanico. Per ora sono iniziati i lavori di dismissione delle vecchie strutture, 6 mesi di martello pneumatico e 20.000 euro per ogni nuova stazione da costruire, 25.000 le nuove biciclette, la più grande offerta al mondo in libero servizio. Oggi esistono 700 km di piste ciclabili e sono in costruzione altri 700 e in più sono partiti anche i lavori per 5 nuove linee della metropolitana. Ma l'obiettivo più ambizioso del comune riguarda il divieto di accesso in città entro il 2024 a tutti i veicoli diesel e entro il 2030 a tutti i veicoli a combustibile fossile. Sentiamo la sindaca Anne Hidalgo intervistata in TV sulle polemiche che sono succedute al suo annuncio antiatomobile. Oggi in città solo un parigino su 10 va a lavoro in macchina. Sono solidale con queste 10 e non si parla mai di loro quando si dà spazio alle polemiche e alle accuse degli automobilisti. Le persone che prendono i trasporti pubblici sono la maggioranza e per loro bisogna migliorare il sistema di trasporti. Oggi abbiamo meno 30% di circolazione automobilistica e meno 30% di inquinamento a Parigi. Ma come hanno reagito i cittadini all'annuncio Parigi senza macchine nel 2030? Non uso la macchina dentro Parigi, quindi non mi dà fastidio. Preferisco prendere i trasporti perché ci sono molte linee della metropolitana e ci si può spostare facilmente. Tutti i miei spostamenti li faccio in bicicletta. Possiamo dire che si tratta della mia macchina. Parigi senza veicoli inquinanti nel 2030? Certo che sarà possibile, ma questo non ne farà una città senza macchine. Ci saranno sempre tanti veicoli e lo stesso rischio per i ciclisti e i pedoni. Io vengo tutti i giorni dalla periferia in città. Quando piove e quando nevica, sono attrezzato. Ma per esempio l'altro giorno avevo male al petto. Pur non avendo fatto sforzi, credo che sia a causa dell'inquinamento. Credo che sia formidabile e io non ho la macchina, mi sposto con i mezzi pubblici. So che il comune sta cercando di fare alcune cose, ma potrebbe fare di più. Per esempio rendere pedonale alcune zone della città. Credo che sia giusto dal punto di vista ecologico, ma bisogna avere i mezzi per gestire milioni di persone che si sposteranno con i mezzi pubblici. Le biciclette possono andare bene per le persone più giovani che abitano nella prima periferia, come me. Ma per chi viene dalla regione, io faccio 6 km all'andata e 6 al ritorno per venire in centro città. Ma ritorniamo all'affermazione della sindaca. L'inquinamento in città si sarebbe ridotto del 30% dal 2001 ad oggi. Ma si tratta di un dato reale? Lo abbiamo chiesto a Amélie Fritz, che lavora a Air Paris, associazione che da 40 anni sorveglia la qualità dell'aria in regione. Nella coscienza collettiva la qualità dell'aria si è degradata, perché forse ne parliamo di più. Ma bisogna sapere che la qualità dell'aria è migliorata. Per esempio nel 2012, con la stessa regolamentazione di oggi, si contava 4 milioni di abitanti nella regione parigina esposti all'inquinamento e circa 9 parigini su 10. Sempre quell'anno ci sono stati 44 sforamenti dei limiti consentiti. Nel 2016, data dell'ultimo bilancio, eravamo a 1,4 milioni di abitanti esposti, un parigino su 2, e i giorni di sforamento sono stati 16. Ci sono diversi fattori a cui imputare questo miglioramento. Il traffico è diminuito, c'è stata una riduzione dello spazio dedicato alla macchina in città, con la creazione di piste ciclabili e vie dedicate solo agli autobus, ma bisogna considerare anche il dato del miglioramento di questi veicoli. Ci sono meno macchine e in più sono meno inquinanti. L'inquinamento è anche cambiato in questi ultimi anni. Per esempio, negli anni 90 avevamo delle concentrazioni di piombo nell'aria davvero importanti. Siamo passati ai veicoli senza piombo e oggi non abbiamo più nessun problema di piombo nell'aria. Quindi, nonostante la percezione comune, la qualità dell'aria è migliorata in città. Ma per gli anni a venire, quali sono le strategie che i governi locali dovrebbero perseguire per continuare a ridurre il problema dell'inquinamento? Lo abbiamo chiesto ancora a Stéphane Kirkland di Arcadis. Allora, la prima cosa è di avere una politica e una visione, una vera strategia di mobilità per la città complessiva che integra tutti gli aspetti e che vede tutto come un sistema che deve funzionare insieme. L'altra cosa è di naturalmente vedere questa strategia dal punto di vista della sostenibilità, ma anche dell'innovazione. La mobilità è un mondo che sta cambiando molto velocemente con la tecnologia, le applicazioni del telefonino che hanno aperto molte possibilità nella mobilità, e anche la rivoluzione che sta arrivando dei veicoli autonomi che sta per cambiare completamente lo spazio pubblico e come funziona le grandi città del mondo. Allora, tutto questo si deve anticipare e i governi municipali e dei metropoli devono pensarci, a avere una vera strategia per affrontarlo, perché se no saranno vittime di tutti questi cambiamenti. Lasciamo così Parigi, che con ogni probabilità non si lascerà prendere impreparata da questa annunciata rivoluzione della mobilità. È lo stesso per l'Italia? Nella classifica di Arcadis sulla mobilità sostenibile attraverso i criteri dell'umano, dell'ambientale e dell'economico, ci sono anche due città italiane. Milano è stato 18° della classifica, allora una posizione abbastanza buona. Quello interessante nel caso di Milano è che ha riuscito abbastanza bene sulla categoria dell'ambiente, ma è stato più debole nell'umano e l'economico particolarmente. E queste sono le dimensioni di miglioramento per Milano. Roma è stato del tutto peggio, 40° del generale, e con debolezze. Forse può sorprendere anche per Roma una posizione abbastanza buona per l'ambiente, ma veramente posizione debole per l'umano e l'economico. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.